un mondo fra un caos mondiale, come una partita parti diretto alla finale. Non so che religione devo praticare, ma alla fine mi tocca bestemmiare. Alla fine ti scotta vedermi sfondare, alla fine la tua fine sta per arrivare. Giro di parole come la bottiglia al tavolo delle puttane. Scusate il linguaggio, lo so, fa cagare. Questa è una strofa da far girare. Mi fumo due cannoni e inizio a viaggiare. Scrivo pezzo per pezzo, dovete pazientare. Un branco di venduti, rap non lo sapete fare. Non sono il maestro, ma con qualche rima vi faccio suicidare. Con la mia crew mangiamo rap e pane, la tua crew mangiate pene e pane. Soffrite le pene del sottoscritto infame. AGE diretto in studio a registrare. Sai il perché? Prova a pensare. Il mio mondo è un film dove tutti vorrebbero partecipare, intromettersi nella mia vita solo per cazzeggiare. Mai fatto una rapina, mo l'abitudine di derubare, anche quella di denudarle. Ah, un'altra cosa per chi mi odia, baciatemi le palle, compaio alle tue spalle senza far domande. Sgancia il contante, non vedermi come cantante, per vedermi devi fare le carte. Ah, sono uno spirito, compaio all'istante quando rappo tremano le case. Sfondiamo le case, rompo tutto, sono devastante. Ho imparato l'arte e l'ho messa da parte. Ti domando quando si parte, vai a comando, levati, grazie. Il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo. Corri, scappa da questo inferno, corri, aggrappati alla soglia del vento, immobile come quando stai nel cemento, stai attento, se ti prende ti aspetta il verdetto. Un riletto in mano al bivello, basso livello, in mano uno scettro, ti cancello, di fianco uno spettro, mio fratello, mio fratello. Corri, scappa da questo inferno, corri, aggrappati alla soglia del vento, immobile come quando stai nel cemento, stai attento, se ti prende ti aspetta il vero. Star da soli una cosa che nessuno ha il coraggio di fare. Tutti cagati sotto, tutti presi male, nausea, mal di mare. Mi sono rotto il cazzo, daggio solo mentale, rozzo come un maiale. Il mio flow spaziale, too big show, banale. La tua tipa piace anale, l'alternativa puttana. Sei protagonista di un horror d'argento, ti fa guadagnare. Ah, ho fatto un CD solo con la vita, frate è reale, non la faccio finita solo perché voglio che schiattate. Quando inizio a guadagnare sembra poesia, ma la dico giusto per allungare. Sei finta, il chirurgo di sicuro ti ha fatto sganciare. Agapo sul beat, indovina il finale, nel garage quattro Porsche. Se sognare, angoscia, male male, andiamo mare mare, no mano in mano, se no finisco che combino un guaio. Legati io, vai, arrivo rilassato, me ne porto della fine del mondo. Il mio mondo è già andato, come la mia testa, furia di far festa. I miei neuroni mi hanno abbandonato, risulto come il ragazzo sbandato, malandato. Tu stavi male, già te ne sei andato. Salutami Dio, digli che sto arrivando, li porto come dono un bel carico, poi vado all'inferno e mi ricarico. Non sono satanico, anzi molto credente, credo che arriverà Cristo e mi rimanderà nel passato per rifarmi fare questo presente. Non so se hai presente, costruisco l'arche sopra, ci pianto marijuana qua, che puttane. Sì, questo è il mio essere o non essere, fumi erba non ci posso credere, io le stesa terra viaggio, arriva Venere. Il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo, il mio mondo.